giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buonaforte a Trieste, pioggia su buona parte della regione, temperature in calo, il maltempo ha colpito soprattutto il Friuli, allagamenti a Udine, dintorni e a Cividale. Crisi Varzi, l'ha approvata dal governo la nuova norma antidelocalizzazioni, previsto il rimborso di tutti i contributi pubblici, nuovo ricorso dei sindacati contro i 450 esuberi. Le truffe dei contratti di luce e gas a Bagnaria Arza, una donna si è vista intestare contratti mai sottoscritti, utilizzate registrazioni con voce firme false. I costi dell'energia fermano la Burgo di Tolmezzo, fino a fine mese a casa 240 persone per il blocco di altre linee di produzione. A livelli critici l'accoglienza di richiedenti asilo provenienti dalla rotta balcanica, sovraffollate le strutture di Gradisca e Udine, a Trieste in tanti senza assistenza. Il ricordo di Licio Damiani, giornalista critico d'arte, spentosi all'età di 87 anni, per molti anni è stato un nostro collega della redazione di Udine, responsabile della rubrica domenicale Vita nei campi. Tasso di occupazione quasi al 100% per l'Istituto Tecnico Superiore del Malignani, che oggi si presenta al pubblico, stretta la collaborazione con le aziende del territorio, dal settore della meccatronica a quello dell'arredo casa. Un nuovo reparto per la riabilitazione all'ospedale di Gemona, lo gestirà Gervasutta, avrà 32 posti letto per cardiologia e neurologia, a finanziare il progetto quasi 4 milioni di fondi regionali. Il fine settimana di Pordenone Legge, oggi il premio Pulitzer Joshua Cohen, lo scrittore ucraino Alexei Nikitin, Roberto Saviano e Massimo Recalcati. Pronto il programma di celebrazioni per i 40 anni del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino, ricordato il legame storico con il re d'Inghilterra Carlo III. Lo sport, Triestina e Pordenone oggi in campo per la quarta giornata del campionato di C nel basket stasera, il primo derby Udine-Cividale nella Supercoppa di A2. Sono le 7:19 di sabato 17 settembre, buongiorno da Livia Liberatore, Andrea Covri in studio per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il tempo in apertura, il cielo attualmente coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 15 gradi, vento 60 km orari da est-nord-est Bora, con raffiche che dalla mezzanotte hanno raggiunto i 97 km orari. Mare molto mosso, con temperatura di 23 gradi e mezzo. A Gorizia e Pordenone 14 gradi, a Udine 13 gradi e mezzo, Piancavallo e Sappada 7 gradi, Tolmezzo 13 gradi e mezzo, Forni di Sopra e Tarvisio 9, Monte Lussari 2 gradi, Monte Zoncolan 3, tornando sulla costa Grado 15 gradi, a Lignano 16 gradi e mezzo, temperatura del mare di 21 gradi e mezzo. Le previsioni, al mattino cielo coperto con piogge moderate e neve oltre 2000 metri, fino a 1500 sulle Giulie. Bora sostenuta sulla costa, forte a Trieste, moderata in pianura. Nel pomeriggio miglioramento, iniziare dalla Carnia, le piogge cesseranno e si avranno schiarite da nord verso sud. In regione l'ondata di maltempo ha colpito in particolare Udine, dove ieri in serata si sono abbattute forti piogge che hanno causato disagi in diversi punti della città. Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco e dei volontari della squadra comunale di protezione civile del comune per allagamenti, in particolare nell'area Terminal Studenti, in piazza Primo Maggio e in via Rita Levi Montalcini, per aiutare i commercianti che si sono ritrovati con i negozi parzialmente sott'acqua. I volontari hanno operato anche a Moimacco, Tavagnacco e Pasian di Prato, danni anche a Cividale, dove verso le 19 di ieri c'è stata una grandinata mista alla pioggia. Notte di bora e pioggia a Trieste, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in più punti della città per rami e alberi pericolanti. Ora le novità sul caso Varzila. Il governo ha approvato il terzo decreto aiuti per sostenere famiglie e imprese. Contiene anche la norma antidelocalizzazioni che allunga i tempi e inasprisce i costi per le aziende che, come Varzila, intendono trasferire attività all'estero. Intanto i sindacati hanno presentato un nuovo ricorso contro gli annunciati licenziamenti allo stabilimento triestino di Bagnoli della Rosandra. Il governo ha modificato le norme in materia di delocalizzazione come promesso dai ministri Orlando e Giorgetti. Si tratta di emendamenti retroattivi che allungano i tempi per la conclusione della procedura da 30 a 120 giorni, appesantiscono le sanzioni e soprattutto prevedono che nel caso la delocalizzazione riduca del 40% il personale, l'impresa è tenuta a restituire i contributi pubblici degli ultimi 10 anni. Un emendamento che dà una boccata di ossigeno ai lavoratori della Varzila perché allunga i tempi della procedura di licenziamento, scrive in una nota il segretario della FIOM Luca Trevisan, che attende però di conoscere meglio il testo. Tuttavia, senza la modifica, le lettere di licenziamento sarebbero partite già il 14 ottobre, ora i tempi potrebbero slittare addirittura a gennaio, ma non si conoscono ancora i dettagli di come si applica l'allungamento dei termini e quindi sulle date, dicono Alessandro Gavanin della FIM CISL Trieste e Antonio Rodà della WILM, che ritengono l'emendamento un segnale comunque importante, che anche il governo sta facendo la sua parte. Intanto le RSU FIOM, FILM e WILM hanno depositato 2 giorni fa il ricorso con cui chiedono l'immediata sospensione della procedura di licenziamento per vizio di forma, dal momento che Varzila ha prodotto 8 milioni di utili e un aumento del 26% dei ricavi l'anno scorso, ribadisce Gavanin. Il ricorso dell'RSU si aggiunge a quello depositato dalla Regione, che ravvisa elementi di incostituzionalità nella procedura di Varzila, sul quale il Tribunale si esprimerà il 28 settembre, mentre per il 21 è atteso il pronunciamento del giudice sulla condotta antisindacale di Varzila. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il caro energia per le famiglie alle prese con i rincari delle bollette. C'è anche un'altra trappola, quella dei contratti di luce e gas, che spesso vengono attivati in maniera fraudolenta. Un nuovo caso del genere è emerso in Friuli. Mi conferma di aver richiesto e firmato per l'attivazione della domiciliazione bancaria, conferma? Sì, confermo. E io non sono quella persona che sta parlando, sinceramente, ha una voce completamente diversa, cioè, si sente... Per 2 volte una donna si è finta Gabriella Menossi, operaia di Bagnari Arsa, sottoscrivendo a suo nome un contratto luce-gas mai richiesto. Un'altra volta si è ricorso ad una firma falsa. Come mi sono sentita? Come quando un ladro entra in casa tua. Cioè, ti rubano l'identità, ti rubano tutto quello che è tuo. Finti broker che stipulano nuovi contratti all'insaputa sia degli utenti sia degli stessi gestori, recessi né cercati né voluti, sfruttano l'ansia per l'aumentare delle fatture per l'energia. Come lei, sono una 60 le persone che si sono rivolte nelle ultime settimane a Federconsumatori Udine, con tanto di denuncia alle autorità. Erika Cuccu, presidente di Federconsumatori Udine. Purtroppo ne vediamo moltissime in questo periodo, anche perché le persone sono molto vulnerabili, chiaramente cercano di risparmiare in qualsiasi modo, ma in realtà non c'è la competenza per leggere i contratti e pertanto incappano in queste truffe pensando invece di risparmiare. Disconosciuti i contratti, la signora Menossi non ha avuto danni economici, ma i tentativi di truffa non sono terminati. 2 giorni fa mi chiama un numero, Benevento, diciamo, no? La provincia, dicendomi appunto che sono questi operatori di questo gestore, la passeremo a un partner di zona per vedere di riuscire a risparmiare un po'. Ho detto, siccome che... ancora non sono uscita da questa avventura, perché comunque c'è un procedimento penale, no? E allora dico, no, guardi, lasciamo stare tutto, non mi interessa per il momento, parlerò con chi do il dovere. Bagnari Arsa, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. I costi dell'energia mettono in scacco anche le aziende. Proprio per gli aumenti è stata costretta a fermarsi la cartiera Burgo di Tolmezzo. Alcune linee non lavoreranno a partire da lunedì e fino a fine mese a casa restano 240 persone. L'aumento dei costi dell'energia, ha dichiarato l'azienda, sono imprevedibili e consistenti. La cassa integrazione era stata aperta già 3 settimane fa nel reparto cellulosa, 50 dipendenti allora coinvolti. Ora però si sono fermate anche le linee di produzione della carta, l'imballo, le taglierine. La fabbrica è ferma, resta attivo solo il servizio di spedizione e di manutenzione. Preoccupati i lavoratori e i sindacati, che il 26 settembre a Vicenza incontreranno i vertici dell'azienda per fare il punto della situazione. Cambiamo argomento, parliamo dell'accoglienza degli immigrati richiedenti asilo in regione. Sta tornando fuori controllo. Al CARA di Gradisca e alla Cavarzerani di Udine le strutture sono al completo, mentre a Trieste sono tante le persone rimaste per strada e ora è in arrivo il freddo. Gli ingressi al CARA di Gradisca, da quanto si apprende, sono ripresi nelle ultime ore, lo ha deciso la prefettura dopo il trasferimento di una trentina di richiedenti asilo. Hanno lasciato il posto ad altrettanti da giorni accampati fuori in attesa di entrare nella struttura che era stata temporaneamente chiusa perché satura. La situazione però resta difficile, sottolinea preoccupata il sindaco Tomasinsic, perché gli arrivi dalla rotta balcanica, seppure a piccoli numeri, continuano e il centro ha superato le 600 presenze, il triplo della sua capienza, così anche a Udine, l'ex caserma Cavalzerani, che conta 900 migranti, ma dove però al comune non risultano bivacchi in città, non invece a Trieste, dove in assenza di analoghe grandi strutture le persone sono rimaste per la strada, segnala anche il comune. Almeno 280, stando ai dati dell'ICS, l'ufficio per i rifugiati. Non si tratta di un'emergenza reale ma artificiale, indotta dai trasferimenti fuori regione negli ultimi mesi col contagocce, rimarca il presidente della ONLUS Schiavone, che riferisce di aver sollecitato più volte una soluzione temporanea alla prefettura, ma di aver trovato un muro di gomma. Critiche sterili, ribatte il prefetto di Trieste Vardè, che ridimensiona e spiega: abbiamo scontato i riflessi dell'emergenza Lampedusa, che ha riempito i centri accoglienza ovunque, ma abbiamo già trovato soluzioni temporanee e permanenti. Circa 200 posti tra l'hotel Transilvania e Casa Malala Fernetti e le case Betania e Sicar in città. Vardè fa sapere che c'è ancora qualcuno per strada, ma assicura che sta facendo il massimo per garantire a tutti un posto e fa appello alla collaborazione di tutti. Enti partner nell'accoglienza in primis, perché il momento, dice, è difficile in tutta Italia. Sul fronte arrivi dalla rotta balcanica, la regione conferma intanto che non vi è emergenza nei numeri, in linea con quelli dello scorso anno. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. I vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia in aiuto ai paesi delle Marche colpiti dall'alluvione. A seguito della richiesta giunta alla sala operativa della Direzione Regionale Vigili del Fuoco da parte del Centro Operativo Regionale, è partito ieri sera dal comando di Udine alla volta di Ancona il modulo operativo di colonna mobile regionale dei gruppi operativi speciali. Il modulo, composto da 5 operatori, 2 mini escavatori, 2 mini pale meccaniche, 2 mezzi di supporto e 2 auto articolati per il trasporto delle macchine operative, si è recato al posto di comando avanzato di Senigallia, dove opererà a supporto della popolazione colpita dall'emergenza in località Pianello di Ostra. Una notizia sulla viabilità regionale: a causa del proseguimento dei lavori per la realizzazione della terza corsia sull'autostrada A4, dalle 18 di oggi alle 10 di domani, domenica, verrà chiuso il tratto tra San Stino di Livenza e il nodo di Porto Gruaro in entrambe le direzioni. Autovie Venete rinforzerà il personale ai caselli di San Stino, Cessalto, Porto Gruaro e San Donà di Piave. La cronaca: a Trieste i carabinieri stanno aspettando di poter raccogliere la testimonianza di Simone Rossi, l'uomo di 45 anni, titolare di un noto bar nella centrale via San Nicolò, aggredito l'altra sera davanti alla sua abitazione di Aurisina Cave. L'uomo era appena sceso dalla sua automobile e si stava dirigendo verso la porta di casa quando è stato brutalmente pestato. Ha riportato un forte trauma cranico, una lieve emorragia cerebrale e la frattura del naso. È stato ricoverato ed operato in ospedale. A dare l'allarme è stato un vicino che ha sentito dei lamenti, ma non avrebbe visto l'aggressore. Motivo dell'aggressione sarebbe il furto dell'orologio che il Rossi aveva al polso. L'uomo aveva subito un'analoga aggressione con un tentativo di rapina già nel giugno scorso. È morto a 87 anni Licio Damiani, già nostro collega, giornalista della redazione udinese della RAI regionale ed apprezzato esponente culturale del Friuli Venezia Giulia. Lutto nel mondo dell'arte, cultura e giornalismo della nostra regione. All'ospedale di Udine è morto lo scrittore, giornalista e critico d'arte Licio Damiani, uno degli autori più lucidi e ispirati del panorama artistico e culturale friulano a cavallo tra Novecento e contemporaneità. Era nato nel 1935 a Lussin Piccolo. Le vicissitudini della guerra lo portarono a Udine assieme alla famiglia, in quel Friuli che ha sempre considerato terra di adozione. Laurea in giurisprudenza a Trieste, ha subito intrapreso la critica d'arte condivisa con la professione giornalistica. Professionista dal 1964, fu assunto in regione come caposervizio all'ufficio stampa e responsabile della redazione di Udine. Nel 1985 il passaggio in RAI alla TGR del Friuli Venezia Giulia, curando fin dal 1997 le notizie del panorama friulano, con la predilizione ovviamente per i temi d'arte e cultura, ma non solo. Per anni fu responsabile della rubrica domenicale di agricoltura Vita nei Campi. I suoi corsivi per la trasmissione sono stati raccolti di recente in un volume. Membro dell'Associazione Internazionale dei Critici d'Arte, ha sempre continuato le sue collaborazioni giornalistiche. Sterminata la produzione saggistica con due caposaldi, uno dedicato all'arte del Novecento in Friuli e il secondo al Liberty e agli anni venti. Attivo nei circoli d'arte e cultura, ha affrontato anche le pagine della narrativa con una serie di volumi che gli sono valsi più riconoscimenti. Di lui scrisse Carlos Gorlón, che Damiani sia più scrittore che critico è evidente in ogni suo testo, ricchissimo di metafore, di cromatismi, di odori, di felice sensualità mediterranea, di immaginose invenzioni, di ruente ricchezza di vocabolario, di grande verve linguistica. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Arriva a Trieste il Pride LGBTQIA+, autogestito dal basso. Il corteo partirà alle 17 da Piazza Goldoni, con ritrovo dei partecipanti dalle 15.30 e si concluderà in Piazza Unità alle 21. Sentiamo il bisogno di ricostituire una comunità per stare al sicuro in un mondo che continua a restituirci notizie di aggressioni homo, lesbo, bitransfobiche, di femminicidi e transicidi, scrivono gli organizzatori. Vogliamo riportare l'attenzione sulla mancanza di lavoro, sulla precarietà a Trieste, dove Principe, Flex e Varsila chiudono i battenti, lasciando per strada centinaia di persone. Tra le associazioni promotrici, non una di meno, Euforia, Trans, FVG, Arcigay, Arcobaleno, Villa Carà e Fridays for Future Trieste. Gli appuntamenti politici in vista delle elezioni del 25 settembre. La ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti sarà oggi in regione. Interverrà con il vicepresidente della Camera e presidente di Italia Viva Ettore Rosato a un incontro pubblico al Kulturnidom di Gorizia alle 15. In precedenza, Udine, alle 11, incontrerà la stampa all'Hotel Astoria. Il MITS, l'Istituto Tecnico Superiore del Malignani, si presenta nel MITS Day alla presenza della Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti alle 10 nella sede di Confindustria Udine. Neodiplomati e imprese illustreranno le attività di formazione e le opportunità occupazionali del MITS, che offre corsi post-diploma di alta specializzazione nei settori meccatronico, aeronautico, della redo casa e agroalimentare, in collaborazione con le imprese del territorio. Ne abbiamo parlato con Michele Masoni, coordinatore tecnico del MITS. I tecnici superiori diplomati del MITS Academy hanno la possibilità di entrare in azienda con un livello formativo molto alto, quindi di inserirsi immediatamente in quelli che sono i punti chiave dei tecnici ricercati dalle aziende, con delle competenze già ben sviluppate, quindi con delle competenze pronte per essere inserite nel mondo del lavoro. Qual è il tasso di occupazione? Il tasso di occupazione è molto alto, ed è prossimo al 100%. La quasi totalità dei nostri tecnici superiori in realtà si inserisce in azienda già durante i percorsi, quindi nel momento conclusivo arrivano all'esame finale, in cui hanno già solitamente diverse proposte concrete per opportunità di lavoro interessanti. Perché il MITS funziona in collaborazione con le aziende del territorio? Assolutamente sì, i nostri percorsi sono pensati e costruiti di anno in anno in collaborazione con le aziende, proprio per andare a formare quelle che sono le figure tecniche maggiormente richieste dalle aziende e quelle in cui in realtà le aziende hanno difficoltà nel trovare tecnici specializzati da inserire al proprio organico. Sono previsti periodi di stage? Sì, sono previsti periodi di stage in azienda, solitamente sia al primo che al secondo anno, periodi in cui il futuro tecnico può confrontarsi con l'azienda e con quelle che sono le performance, le richieste tecniche che vengono richieste poi dall'azienda stessa. 16 posti letto di cardiologia riabilitativa e 16 di neurologia saranno attivati in un nuovo reparto dell'ospedale di Gemona. Lo prevede l'intervento deciso dalla Regione per la totale riqualificazione del terzo piano, dove verrà attivato il reparto gestito dall'Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione Gervasutta, che aprirà quindi una nuova sede a Gemona in aggiunta a quella principale di Udine. Costo della nuova realizzazione 3.830.000 euro, interamente coperto da finanziamenti regionali. Oltre 80 appuntamenti oggi a Pordenone Legge. Protagonista particolarmente atteso il premio Pulitzer Joshua Cohen per l'anteprima italiana del libro In Netanyahu, dove si narra un episodio minore, in fin dei conti trascurabile, nella storia di una famiglia illustre. Alle 21 al Capitol. In programma anche la prima presentazione italiana per il nuovo romanzo di Jeffrey Deaver, La mappa nera, appuntamento alle 11.30 in Piazza San Marco. Focus sull'Ucraina con l'incontro in presenza con lo scrittore Alexei Nikitin. Alle 19 al Ridotto del Teatro Verdi parlerà dell'ultimo romanzo Bat Ami di fronte al fuoco, di prossima pubblicazione in Italia. Tra i tanti ospiti della giornata anche Roberto Saviano, Valeria Parrella, Massimo Recalcati, Diego da Silva. L'immigrazione, i nuovi italiani, la loro identità composita e la difficoltà nel rapportarsi con la società del loro nuovo paese sono gli ingredienti di tutta intera il libro di Esperance Hakuzwimana, nata in Ruanda e adottata e cresciuta in Italia. Ieri l'incontro con l'autrice a Pordenone Legge. Tutta intera vuole raccontare la collettività di questa Italia contemporanea, di questa Italia presente. Vengono chiamati nuovi italiani, ma esistono da anni, ormai da decenni, e hanno un'identità ferrata, un'identità radicata che può essere duplice, sia italiana che quella del paese di origine. E tutta intera vuole unire queste storie, vuole raccontare il percorso di identità, vuole raccontare cosa significhi parlare, vedere e soprattutto scoprire la propria appartenenza, nella difficoltà, nella bellezza, nella gioia anche ovviamente, nel dolore. Italiani di ascendenza africana come lei hanno necessità di mettere insieme, secondo lei, dei pezzi del proprio essere? Sì, è un processo inevitabile quello di riunire tutti i pezzi dell'identità, soprattutto in un paese che ancora fatica a riconoscere, no? L'italiano nero che c'è, fa, lavora, studia e cresce e decide di restare in Italia. Pezzi che si compongono e che compongono la propria identità in un percorso però che è personale, ognuno lo fa a suo tempo, ognuno lo fa a suo modo e ovviamente anche con gli strumenti che ha a disposizione. Pordenone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E delle nuove frontiere della medicina parla invece Materiali per la vita, il libro del fisico Davis Bellucci che ha raccontato le incredibili storie dei biomateriali che riparano il nostro corpo. Ci ha raccontato le ultime evoluzioni. Siamo passati da dei materiali inerti che vengono collocati all'interno del corpo, lì rimangono e con meno fanno e meglio è, a materiali che davvero dialogano con le nostre cellule e ne orientano il destino. Questo è quello che accade con l'ingegneria dei tessuti, ad esempio, dove si utilizzano materiali su cui si seminano delle cellule per poi realizzare dei costrutti ibrido, materiale vita, che poi diventerà, dovrebbe diventare, non so, la pelle artificiale e speriamo un domani anche l'organo artificiale che viene poi reimpiantato nel corpo. Termine cyborg è corretto? È corretto, anzi esiste già almeno un cyborg legamente riconosciuto, è un ragazzo inglese di cui parlo nell'ultima parte del libro. Questo ragazzo, pensate, è nato con un difetto, non riusciva a vedere i colori, lui vedeva in bianco e nero. Allora si è fatto impiantare un'antenna incredibile che traduce in suoni i colori, quindi lui ha ogni colore, percepisce un suono e ha quindi una visione del mondo molto musicale, molto varia, e ha preteso che sul suo passaporto venisse mantenuta l'antenna, non ha voluto toglierla, ha detto: io sono un cyborg, sono orgoglioso di esserlo, come voi non vi togliete gli occhi, io non mi tolgo l'antenna. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Mi cercherò tra le nostre giornate estive, tra i discorsi della gente che non mi vuole. Al Parco delle Rose di Grado arriva stasera in concerto il rapper Fabri Fibra con il suo tour Chaos Live, considerato da molti come l'Eminem italiano. Fibra comincia i suoi successi nel 2002 quando debutta come solista con l'album Turbe Giovanili. Nella memoria degli amanti del rap e non solo resteranno per sempre hit come Applausi per Fibra, Tranne te e Bugiardo. A marzo 2022 Fibra ha pubblicato il suo decimo album in studio, Chaos, di cui stiamo ascoltando il brano Stelle, cantato insieme a Maurizio Carucci, album che si caratterizza per la presenza di svariati artisti e produttori, tra cui Francesca Michielin, Gue Pequeño, Madame Marracash e Salmo. Le foto della copertina dell'album sono state scattate proprio a Grado. Il concerto inizierà alle 21. Servirebbe un salvagente. Il Collegio del Mondo Unito di Duino si appresta a festeggiare i suoi primi 40 anni ricordando le visite dell'allora principe di Galles, Carlo d'Inghilterra, ora re Carlo III. In questi giorni in cui si è fatto un gran parlare di re Carlo III d'Inghilterra, in molti ricordano le sue due visite a Duino nel 1984 e nel 1990 al Collegio del Mondo Unito, la scuola internazionale adiacente al castello, pensata per insegnare ai ragazzi di quarta e quinta superiore i valori della pace e del rispetto delle diversità. Qual è il legame oggi tra la corona inglese e il collegio? Joan De Koning, vice rettrice del Collegio del Mondo Unito di Duino. C'è un legame storico perché Carlo, all'epoca principe, era il presidente dei Collegi del Mondo Unito fino al 1995. Poi ha lasciato il posto a Nelson Mandela e la nostra attuale presidente è la regina Nur di Giordania. Non c'è una connessione personale con il nostro collegio dell'Adriatico, ma se volesse tornare a trovarci sarebbe il benvenuto. Quest'anno il collegio festeggia 40 anni e si prepara per celebrarli settimana prossima alla Rapacis Mundi di Medea, Gorizia. Abbiamo 81 diverse nazionalità rappresentate al campus al momento, quasi 200 studenti, un'opportunità incredibile per celebrare il potere collettivo che abbiamo di portare pace e lo abbiamo fatto in questa regione per 40 anni. E chi oggi frequenta la terza superiore ha tempo fino al 24 ottobre per iscriversi alle prossime selezioni per entrare in uno dei 18 collegi del Mondo Unito, come ha fatto lui, Pier Francesco Biondi, da Catania. Io ho detto, vabbè, voglio provare qualcosa di nuovo, vediamo. E così ho mandato l'application. E nulla, dopo aver passato la fase regionale e poi la fase nazionale, mi hanno detto, ah, guarda, sei passato. E io tipo, oh, wow. Quindi diciamo che il mio consiglio è di provare perché magari finisce come è successo a me. La cosa più preziosa che ho imparato qui, dice questa studentessa da Luganda, Lekker Esther, è che non devo giudicare le persone dal loro paese di provenienza. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo sport, il calcio, in Serie C in campo oggi Triestina e Pordenone, primi a scendere in campo i rosso alla Bardati che alle 14.30 allo Stadio Rocco affronteranno la Pro Vercelli. La Triestina nelle prime tre giornate ha raccolto solo due punti ed è a caccia della prima vittoria in campionato. Contro la Pro Vercelli, che ha 4 punti in classifica, ha dimostrato una buona versatilità tattica nelle prime tre giornate, probabili alcune novità di formazione. Mister Bonatti deve fare infatti i conti con le assenze di Lombardi a centrocampo e Sarzi Puttini in difesa. In attacco a cercare i gol vittoria sarà il rientrante Ganz. Alle 17.30 invece la capolista Pordenone cercherà di difendere, anzi rilanciare il proprio primato di classifica, attualmente condiviso a 7 punti con Pro Patria e Novara, in Lombardia a Seregno, nella gara sul campo del San Giuliano. I lombardi neopromossi sono partiti con entusiasmo e hanno già raccolto 6 punti in 3 partite. Secondo l'allenatore dei neroverdi Di Carlo, oggi squalificato al suo posto in panchina al vice Mezzanotti, ci vorrà una prestazione di alto livello per fare risultato. Il Pordenone sta facendo un bel percorso, ma bisogna sempre confermarsi. A disposizione in attacco per la prima volta ci sarà il neoacquisto Palombi ed è possibile che faccia il suo esordio a gara in corso, così come il lituano Dubičkas, altra novità del calciomercato nero-verde. Nel basket oggi è in programma il primo derby friulano di A2. Alle 20 al Pala Carnera di Udine si affronteranno Apu Old Wild West e Web Giusteco Cividale per l'ultimo turno di Supercoppa di Lega. Attesi oltre 1500 spettatori, un centinaio da Cividale. Chi vince tra Apu e Web Giusteco va ai quarti in programma martedì prossimo. Chi perde ha comunque buone possibilità di essere la migliore seconda dei 7 gironi di Supercoppa. E proprio la migliore seconda affronterà martedì la prima del girone arancione di Supercoppa. Alle 7.45 apriamo la nostra rassegna stampa con il Piccolo di Trieste che in prima pagina, sotto una foto che racconta dell'alluvione nelle Marche che ha causato 10 morti e 3 dispersi, dedica il titolo d'apertura ai fondi assegnati a Trieste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. PNRR, 142 milioni da spendere fra porto e scuole, l'antico scalo fa la parte del leone con circa 88 milioni, le bocciature arrivate per la ristrutturazione di 2 palestre storiche e dei giardini storici. Ora il Comune attende i fondi che non sono stati ancora trasferiti. Richiamo in prima pagina anche per la crisi Varzi, la stretta anti-delocalizzazioni arriva al via libera del governo e per le conseguenze del maltempo, dai negozi ai locali, allagamenti continui. I commercianti chiedono soluzioni, soprattutto in centro. C'è anche un'intervista al presidente della Triestina Giacomini che dice «Unione ambiziosa, ma guai ad avere fretta». Nelle pagine dell'attualità l'approfondimento su Wärtsilä, che comprende anche la notizia dell'individuazione da parte del gruppo finlandese del consulente che si dovrebbe occupare della sfida del rilancio industriale del sito triestino, un architetto italiano scelto come advisor per trovare acquirenti alla fabbrica di Bagnoli, si legge nel titolo dell'articolo sul Piccolo. La multinazionale finlandese pronta a dare l'incarico a Piero Fossati, gestì il fallito rilancio di Embraco in cui persero il posto 412 operai. Il Messaggero Veneto di Udine apre con la crisi e l'inflazione. Pieno meno caro, ma 30 distributori hanno già chiuso. I gestori, senza aiuti, molti altri cesseranno l'attività e la tessera per l'agevolata sarà sostituita da un'app. Nella foto in prima pagina, l'alluvione nelle Marche che ha lasciato 10 morti e 3 dispersi, in salvo una coppia di friulani. Nella cronaca, l'addio a Licio Damiani, veterano del giornalismo e autore di libri sull'arte. Poi non dichiara le vincite per non perdere il reddito di cittadinanza. E a Gemona il congresso dei donatori di sangue, oltre 2000 benemeriti. Maratonina e Inter, i percorsi alternativi per evitare ingorghi. E sul fondo, al Malignani, accesi i motori del jet. Gli studenti testano il Provost. Vediamo il Gazzettino del Friuli. Cantieri, comuni a rischio default, i finanziamenti a pioggia per i lavori sono basati sui costi pre-crisi. I sindaci non sappiamo dove trovare i soldi. Da Pordenone a Udine ballano decine di milioni di euro. Il pericolo è quello di perdere gli appalti o di toccare le tasse. Nella fotonotizia il calcio, Udinese, Dacia Arena da tutto esaurito per battere l'Inter e sognare ancora. E poi il ciclismo. Giro d'Italia in Friuli, il Lussari diventa un rebus. L'edizione isontina del Piccolo, in prima pagina le polemiche dopo l'attacco hacker al sistema informatico del comune di Gorizia di fine agosto. L'attacco si trasforma in un caso politico, recita il titolo d'apertura. Il centrosinistra con Rossi chiede conto della privacy e chiede anche all'assessore ai servizi informatici Oreti di dimettersi. Richiamo in prima anche per la nuova viabilità a Monfalcone, scelti gli urbanisti che se ne occuperanno. E in prima pagina c'è anche il futuro a grado del Parco delle Rose con vialetti e giochi e un approfondimento nelle pagine interne sul progetto. Ad aprire le cronache di Gorizia ci sono le polemiche sull'attacco degli hacker col sindaco Ziberna che sui contenuti dei file che potrebbero essere stati diffusi in rete dice l'unica preoccupazione riguarda il settore welfare dove ci sono dati sensibili. Il capocronaca di Monfalcone del Piccolo si apre invece con la giudiziaria. Partito il processo sui dragaggi in porto con 6 imputati tra funzionari pubblici e dirigenti d'impresa. Difese agguerrite, gli avvocati Donolato e Meloni hanno chiesto l'esclusione di Smart Gas quale parte civile, riserva del giudice. Cantieri, comuni a rischio default è il titolo di apertura del Gazzettino di Pordenone. Nella fotonotizia Pordenone legge, i grandi nomi riempiono Pordenone, dall'ex premier alla guerra di Capuozzo. Al centro della prima pagina, radiologia snobbata, il bando dell'ospedale finisce senza assunti. Si cercava una figura in pronto soccorso, l'ASFO ci prova alzando il compenso orario. Dalla cronaca Sacile a Palazzo Ragazzoni si restaurano gli affreschi. A San Quirino fototrappole contro il furto dei cartelli stradali. Villanova è senza pace, tornano i cumuli di rifiuti. Alla Savio il fotovoltaico del futuro. Il gigante delle macchine tessili sta realizzando un parco tappezzato di pannelli alle spalle della fabbrica. Il Messaggero Veneto di Pordenone apre sulla crisi dei benzinai, pieno meno caro ma 30 distributori hanno già chiuso. Dalla cronaca, da Meduno a New York, una nuova scoperta dell'astrofisico Comisso. Un solo candidato per il pronto soccorso vince e poi rinuncia. Un altro restauro per gli affreschi di Palazzo Ragazzoni. E sul fondo Pordenone legge, lo scrittore Nikolaj Lilin racconta l'ascesa al potere dello zar Putin. 7.50 gli appuntamenti, inaugurazione della doppia mostra documentaria sul voto delle donne, un viaggio nella storia del voto, dalla parità dei diritti alla parità di rappresentanza, a Udine, a Palazzo Garzolini di Toppo Wasserman alle 11. La mostra sarà visitabile fino al 30 settembre. Al Teatro Zancanaro di Sacile si conclude la quinta edizione di Un fiume di note, alle 21 la performance tra musica e parole La Sapur Dir, una coproduzione di Distretto Culturale Musice, Mittelfest e Rimemur, che porta in scena l'esperienza d'incontro tra Italia e Slovenia. Si chiude il Festival Polcenigo Jazz River alle 21 al teatro il duo Pasquale Mirra e Amid Drake. Ultimo appuntamento dei concerti in Basilica ad Aquileia, alle 20.45 il coro giovanile I Piccoli Musici, diretto da Mario Mora, accompagnato dall'organo dal maestro Luigi Panzeri, proporrà musiche di Orlando Di Piazza, Giovanni Martini, Mendelssohn, Baldassare Galuppi, Mauro Zuccante. A Castello di Miramare, nuovo appuntamento della rassegna concerti al Castello. Protagonista sarà la Goriziana Guitar Orchestra con un programma dal titolo Da Vivaldi a Rodrigo, chitarre in concerto, che va dalla classica tarantella al paesaggio cubano con pioggia, per finire con il concerto De Aranjuez alle 20. E odora i nostri programmi. Oggi in TV su Rai 3 torna il settimanale, il magazine della nostra testata giornalistica regionale. Ecco il sommario. Torna settimanale estate, in questa puntata i paesi sospesi delle Marche, svuotati dal terremoto, dove 6 anni dopo nessuno torna più neppure per l'estate. Dal numeraio al fresellaro, nei mercati di Napoli, gli antichi mestieri in via di estinzione. A Treviso, l'emporio dei mobili della San Vincenzo, dove il riciclo crea lavoro. Il sentiero degli dei, tra i 10 percorsi naturalistici più belli al mondo. Dalla paura del mare agli ori europei, Domenico Cerenza, campione di nuoto, nato tra i monti. In Toscana una coppia di collezionisti di pomodori ne coltivano 500 tipi. Mogol, gli aneddoti e le curiosità delle canzoni scritte con Lucio Battisti. Oggi nel settimanale estate, 12:25, Rai 3. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11:30 in diretta da Piazza della Motta a Pordenone con lo speciale Pordenone Legge 2022 condotto da Maria Pedone e Vida Valencic per la regia di Antonia Pillosio. Tra gli ospiti Nicolai Lilin, Giada Messetti e Giumpa Lahiri, vincitrice della 15ª edizione del premio Credit Agricole. Alle 13:40 andrà in onda La Meglio Gioventù di Pierpaolo Pasolini, speciale radiofonico a cura di Stefano Rizzardi. Una scelta di 21 testi poetici sullo sfondo delle musiche di Vittorio Vella, con introduzioni e commenti letti da Alice Ronco. Il Friuli Venezia Giulia al centro di Linea Verde Start, in onda oggi a mezzogiorno su Rai 1. Il percorso di Federico 40 seguirà un filo conduttore che è quello dell'acqua, acqua di mare, quella dell'Adriatico, e l'acqua dei fiumi come quella del Tagliamento, che ha determinato la storia di questo territorio e anche dei suoi mestieri. Sono le 7:54, si chiude questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. È stata redatta e condotta in studio da Livia Liberatore e Andrea Cobre, che vi ringraziano per l'ascolto. Grazie anche alla collaborazione tecnica di Alex Ollan ed Eugenio Giuffrida. In redazione ha collaborato Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con l'informazione radiofonica regionale alle 12:30. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.